ti ricordo in un lontano paese, dove il sole bruciava le case di pietra bianca e intorno il mare che un pescatore stava a guardare. E mi ricordo di quel casolare dove di notte mi chiedevi l'amore, lasciando un letto vuoto di nascosto di chi sapeva della tua storia. Abitavi sola a due passi dal porto. Da quel giorno che tua madre ti lasciò, ma la pietà del paese ti cresceva e di coralli lavoravi fino a sera. E sul tuo viso la voglia dell'amore te la portavi da bambina in fondo al cuore. Cosa ricordi di quell'uomo del sud, con la pelle bagnata di sale, al tramonto tornava dal mare, si diceva che di azzurro viveva, ma in silenzio per te moriva. Che fatica camminare sulle pietre, ogni sera per vederti lavorare, così persi l'abitudine ad amare un'altra donna che per me sentiva amore. Molte volte ti cercai, finché una notte mi chiamasti il tuo signore. Cosa ricordo di quel nuovo paese dove andammo a mettere casa e di un cortile vuoto e senza sole e un bambino stava a guardare un'officina, un lavoro di notte, rubò il mio tempo l'ora che tu aspettavi. Un mattino tornando all'improvviso stavi cambiando, ma non ci feci caso. Averti ancora in casa nostra mi bastava.